A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. È lo Stato che per la prima volta processa se stesso e manda alla sbarra insieme propri uomini e uomini di Cosa Nostra. Per la stagione più buia della sua storia, quando il fragore delle bombe minava le fondamenta del paese, lo Stato ora giudica ex ministri, ex capi militari insieme con sanguinosi boss e con opachi ambasciatori di mafia. Tutti insieme con l'accusa di aver agito a favore dello Stato per evitare altro sangue e contemporaneamente aver tramato contro lo Stato, su uno sfondo in cui la mafia corleonese si mescola alla destra eversiva, alla massoneria, a gruppi indipendentisti, a parte dei servizi segreti e a sigle mai identificate come la Falange Armata. Scenari da approfondire nel processo sulla trattativa Stato-mafia, scenari emersi nelle lunghe indagini della Procura di Palermo e poi nei 5 mesi di udienza preliminare davanti al giudice Pier Giorgio Morosini. Scenari davanti ai quali ora lo stesso Morosini, con A ciascuno il suo, dice che questa, per l'Italia, è una delle ultime occasioni per fare luce sulla notte della Repubblica e apre alle ipotesi sostenute anche da altri di una commissione d'inchiesta su quella stagione che sia però antimafia ed antiterrorismo. Ed è nei segreti più inconfessabili che ci addentriamo in questa puntata, tra patti occulti, contesti inquietanti e preoccupanti analogie con la situazione attuale. Il 1992-1993, una stagione caratterizzata anche sullo sfondo da una gravissima crisi politico-istituzionale, da una gravissima crisi economico-sociale, che ha alimentato iniziative di varia natura da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e non solo, anche da altre entità. Ci sono dei grandi temi proprio di natura anche storica che riguardano quella stagione, che andrebbero monitorati e studiati dagli esperti. Questo un po' è mancato, lo dico perché in realtà credo che il periodo che stiamo vivendo adesso, un altro periodo di transizione, cioè quello del 2012-2013, sotto certi profili presenta anche delle analogie con quell'epoca. Parlo di crisi del sistema politico-istituzionale e anche di profonda crisi economico-sociale. A lei personalmente firmare quel provvedimento, che cosa ha rappresentato per lei? Ci sono stati dei mesi molto forti, c'è stata, devo dire, nel corso dell'udienza preliminare la collaborazione da parte di tutte le parti processuali, tutto si è svolto in un clima sereno, nonostante quello che era accaduto prima, insomma, con i commenti che hanno anticipato questo processo. Io ho cercato di mettercela tutta sotto questo profilo. C'è un peso, diciamo, sono storico. Sono vicende molto delicate perché riguardano anche aspetti della vita delle organizzazioni criminali da una parte e delle istituzioni dall'altra che richiedono grandissimo approfondimento. Lei si è concentrato totalmente su questa vicenda, tanto è vero che ha anche rinunciato al suo incarico all'interno di Magistratura Democratica. Avevo la necessità di concentrare tutto il mio sforzo e i miei tempi su questo processo, rendere il mio servizio il più possibile efficiente, eliminando tutti gli altri impegni. Questo è stato un periodo dedicato proprio a questo approfondimento e a questo processo. Si è lasciato assorbire totalmente da un'immersione in quella stagione che non pochi hanno definito un momento di notte della Repubblica Italiana. È stato un periodo funestato da una serie di stragi, intanto. Tutti ricorderanno quelle che erano le difficoltà che si percepivano quotidianamente nel circuito politico istituzionale rispetto a quelle che erano le cose giuste da fare. Venivamo da una stagione, soprattutto il 1991, in cui sul piano del contrasto al crimine organizzato erano stati fatti dei passi da gigante da parte del nostro Stato. Voglio ricordare che nel 91, con Giovanni Falcone al Ministero della Giustizia come direttore degli affari penali, sono state varate una serie di riforme in materia di collaboratori di giustizia e di aggressione ai beni patrimoniali e di norme sul processo penale specifiche per la criminalità organizzata che ancora oggi hanno una grandissima efficacia. Questo fatto spaventava molto le organizzazioni criminali, questo è stato uno dei motivi anche della forte reazione che si è avuta appunto negli anni successivi con una serie di attentati gravissimi che hanno destabilizzato la vita del paese. Dopo questa lunga immersione in questa stagione così cupa, si sente anche da cittadino, oltre che da magistrato, più rassicurato in un certo senso verso degli elementi che possono essere ora ulteriormente, diciamo così, chiariti in un procedimento, o per altri versi più preoccupato? Io credo che sia opportuno accostarsi a questi argomenti con grande laicità. È stata fatta questa indagine e all'esito di questa indagine si è deciso che questi fatti meritano un approfondimento di fronte al giudice del dibattimento. Occorre capire se in quel periodo appunto ci sia stata una alleanza tra organizzazioni criminali di stampo mafioso ed altre entità. Per capire questo occorrerà approfondire molto bene la carriera criminale dei soggetti coinvolti nelle operazioni di attentato da parte dei gruppi criminali, la provenienza del materiale bellico che è stato usato in quella stagione, e occorrerà anche capire la dinamica di certe rivendicazioni, anche la simbologia di certi obiettivi di questi attentati. Pensiamo a quelli che sono stati gli attentati del luglio del 93 a San Giorgio al Velabro, ad esempio, o quello del maggio del 93 a Firenze, via dei Georgofili, venivano colpiti dei luoghi che rappresentano anche il patrimonio storico-artistico italiano. Ecco, io credo che occorrerà approfondire questi profili per comprendere la vera matrice di questi fatti, se una matrice esclusivamente mafiosa, perché questo è già stato accertato in altri processi, o se accanto alla matrice mafiosa ci sono matrici di altra natura. Io credo che sia questa la sfida dei processi dei prossimi anni su questi argomenti. È un qualcosa che rassicura, perché è un elemento che porterà ulteriori elementi, diciamo, di chiarezza rispetto ad una stagione così poco chiara. Oppure, per certi versi, secondo lei questa compresenza di uomini di Stato e uomini di mafia rende ancora più fosche, diciamo, le tinte di quella stagione? Cercare di fare luce su stagioni come quella del 92-93 sia comunque per uno Stato democratico un fatto di maturità. Credo che questo fatto i cittadini lo debbano percepire come uno sviluppo fisiologico di certe vicende investigative, partendo da un punto assolutamente non discutibile, che è quello che comunque c'è una presunzione di non colpevolezza. Certo, un'ulteriore crescita di una forma di democrazia solida, diciamo. Nei pochi squarci di dibattito civile su questo argomento negli ultimi mesi, io ho sentito alcuni opinionisti parlare di diritto alla verità. Nel nostro circuito istituzionale uno dei modi più autentici per esercitare il diritto alla verità è verificare le cose in un processo dove vengono sentite tutte le campane. Forse è l'ultima occasione per la nostra Repubblica per poter fare un po' più di luce su quella stagione. Le risposte poi non necessariamente devono venire tutte dal circuito giudiziario. No, certo, però un po' in più. Potrebbe uscire qualche contributo ulteriore rispetto a quanto già è cristallizzato in sentenze definite. Prima di tutte quella di Firenze, certo, però sul fronte giudiziario questa forse è l'ultima vera occasione per poter in qualche modo. C'è un fatto di cui tutti dobbiamo tenere conto, che più il processo si allontana dai fatti, in questo caso c'è una distanza di 20 anni, più è difficile raggiungere qualche verità plausibile. Sì, probabilmente una delle ultime occasioni per cercare a livello giudiziario di fare chiarezza. Ecco, dottor Morosini, già prima vi faceva riferimento, l'ho scritto anche nella sua ordinanza con cui ha disposto appunto il rinvio a giudizio, viene ricordato il momento di transizione di quella vita politico-istituzionale e anche il momento di crisi di quel 92, un momento che le evoca quello attuale, anche con delle preoccupazioni? Sì. Anche con delle preoccupazioni. È proprio nei momenti in cui, questo un po' la storia d'Italia ce lo insegna, nei momenti di transizione, parlo ad esempio dell'immediato dopoguerra, oppure della fine degli anni 60, inizio anni 70, nei momenti in cui si è registrata una crisi del nostro sistema, soprattutto del sistema politico, ci sono state comunque delle entità in qualche modo riconducibili al crimine organizzato, ma anche di altra natura, molto legata ad una massoneria deviata, che hanno tentato di disegnare attraverso delle azioni concrete, molto spesso violente, uno scenario diverso dal punto di vista proprio costituzionale. Questo ha portato in passato a stagioni di attentati che naturalmente io spero siano scongiurate in questo momento storico, ma è evidente che quando c'è una difficoltà a costituire dei governi stabili per tutti coloro i quali hanno grossi interessi nel nostro paese. Può venire l'idea che in alcune frangenti l'unico collante vero è quello della sicurezza pubblica. Cioè le similitudini di contesto, anche di crisi, di trasformazione, di transizione politico-istituzionale dell'attuale stagione con quella della 92 le fanno temere concreto un rischio di attentati. Allora, in Italia la storia ci dice che nei momenti di transizione e di crisi politico-istituzionale si rischiano dei fatti violenti. Dopo l'immediato dopoguerra abbiamo avuto due momenti di forte crisi in Italia, uno è stato a cavallo fra gli anni 60 e 70 e uno è stato a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Ci sono stati degli attentati in entrambi i periodi. L'Italia in momenti particolari di transizione purtroppo ha riservato in passato delle pagine buie che speriamo non si ripropongano. E anche secondo lei questa rinnovata tensione tra politica e magistratura in qualche modo rappresenta un ulteriore elemento di rischio per questa congiuntura istituzionale? È un salto di qualità dell'ultima stagione nel dibattito politico istituzionale, destabilizza ulteriormente la situazione. Personalmente sono molto preoccupato dalla piega di certi comportamenti, Procura del Tribunale di Milano, mi sembra che questi colleghi stiano facendo il loro dovere, trovo questi attacchi alla magistratura non solo strumentali ma anche pericolosi per la tenuta del sistema. Mentre il giudice Morosini gestiva l'udienza preliminare sulla trattativa Stato-mafia, roventi polemiche fuori si consumavano intorno a quella stagione e a questi temi: le intercettazioni tra Napolitano e Mancino, la morte del consigliere del Quirinale, quindi la candidatura dell'ex procuratore aggiunto Antonio Ingroia. A ciascuno il suo. Quando ha saputo di doversi occupare della trattativa Stato-mafia, Pier Giorgio Morosini subito si è sentito inadeguato, come confessa ora ad A ciascuno il suo. Ma poi questo giudice palermitano, che in passato aveva già studiato e scritto dei tanti patti occulti che hanno scandito la storia italiana, subito si è immerso nelle carte e ha cominciato il suo viaggio nella notte della Repubblica, rinunciando per questo a tutti gli altri incarichi che aveva. E ora che ha mandato a giudizio mafiosi come Totò Riina, Lio Luca Bagarella e Giovanni Brusca, insieme con ex ministri come Nicola Mancino, politici come Marcello Dell'Utri o ex ufficiali dei Carabinieri quali Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, Morosini pensa che questo processo sia una delle ultime occasioni per fare luce su quella stagione. E in questa intervista da ciascuno il suo parla anche di quelle settimane di tensione per le telefonate intercettate del capo dello Stato o per la discesa in campo di Antonio Ingroia. Potrebbe essere molto importante la istituzione di una commissione che riguarda fondamentalmente le stragi, ma che in realtà attraverso lo studio dei fatti stragisti possa ricostruire una serie di vicende, una serie di legami. Al di là sì dell'ipotesi, insomma, di una commissione ad hoc sulla stagione delle stragi, ma una commissione che sia antimafia e antiterrorismo insieme, come pur anche altri magistrati ritengono, viste anche proprio le componenti diverse, anche lei conviene su questa necessità. Si potrebbe istituire una commissione che studia, partendo da quell'epoca, quelle che possono essere le convergenze tra organizzazioni di stampo mafioso e organizzazioni di natura diversa, di tipo eversivo, di tipo politico eversivo e quindi terroristico anche. Penso che possa essere una formula giusta per affrontare le questioni di quegli anni. Anche nell'inchiesta sulla trattativa sono venuti fuori elementi che ricongiungono, diciamo, piani e livelli e ambienti che forse richiedono approfondimenti. Lei stesso prima citava i necessari approfondimenti su materiali bellici, alcuni particolari anche sugli ordigni utilizzati nelle stragi rappresentano dei punti di contatto con ambienti di un certo tipo militari. E poi si è riaperta anche tutto un altro capitolo, che è quello della cosiddetta falange armata. Sì, la falange armata è emerso questo, ma questo già emergeva dai documenti della DIA degli anni 93-94. Certo, però ora con una luce diversa. È con una luce diversa, infatti tutte le stragi, tutti gli attentati di stampo mafioso di quegli anni, che avevano come obiettivi uomini delle istituzioni o comunque obiettivi relativi al patrimonio storico e artistico, avevano sempre questa rivendicazione da parte della Falange Armata. Le rivendicazioni della Falange Armata, anche negli anni precedenti al biennio 92-93, erano di solito rivendicazioni che riguardavano attentati di matrice eversiva. Quindi questo è, teniamo conto del fatto che nell'epoca degli attentati 92-93, quindi della strage di Capaci, di Via D'Amelio, le strage via del Gergofili a Firenze, proprio in quel periodo c'erano una serie di personaggi delle istituzioni che ricevevano minacce ripetute dalla Falange Armata. Quando parlo di personaggi delle istituzioni parlo quelli che erano in posizione di vertice nei ministeri, certo, da Mannino a Mancino, della giustizia, insomma, ecco, tutti, ecco, quindi tutto questo. Molti di quei personaggi lì poi sono stati anche coinvolti in vario modo nella vicenda, nell'inchiesta sulla trattativa. Sì, ma di questo non voglio parlare. No, certo, ma per dire è un ulteriore punto di contatto tra no, i due. Osservavo questo discorso della Falange Armata anche rispetto alle minacce ai singoli per sottolineare il ritorno continuo in quella stagione di questa sigla, su cui naturalmente ci sono state nel decennio scorso soprattutto molte indagini da parte dell'autorità giudiziaria capitolina. C'era il dottor Saviotti, prematuramente scomparso, certo, che aveva approfondito moltissimo questo tema. Io credo che dietro questa sigla della Falange Armata possano esservi delle vicende e delle questioni che potrebbero aiutare, se scoperte, a far luce ulteriormente su quella stagione. Perché se la volessimo dire in un modo un po' semplificato, considerando la complessità e la abnorme quantità di materiale che è stato esaminato, 100 faldoni, che cosa emerge? Che a un certo punto forze diverse si sono ritrovate nella decisione, nella volontà di arrivare ad una stagione delle stragi. È quello che in qualche modo la famosa riunione di Enna, di cui parla anche il pentito, aveva stabilito? Emergono due ipotesi che saranno da verificare appunto nel dibattimento. Una di carattere più generale: l'organizzazione mafiosa, saldandosi con altre consorterie di diversa natura, tenta di incidere su possibili futuri scenari politico-istituzionali per avere una serie di vantaggi, non solo l'impunità ma anche altre cose che riguardano molto il profilo economico delle organizzazioni mafiose. E l'altra tesi che è sul campo è quella di una interlocuzione tra personaggi mafiosi e personaggi delle istituzioni dal lato di Cosa Nostra per risolvere il problema contingente per quel periodo della repressione penale. Non dimentichiamoci che nel 1992 va in vigore il famoso articolo 41 bis del carcere duro. Questo comporta, e c'è una reazione rispetto a tutto questo, per ridimensionare quell'assetto normativo. Secondo la tesi di questo processo si sarebbero avviate delle interlocuzioni con personaggi del circuito istituzionale in un'ottica di intese con scambi. Sarà oggetto di verifica nel dibattimento che comincerà nel maggio prossimo. Il 27 maggio riporta la centralità sull'importanza di figure cerniera, come ad esempio nomi noti come Vito Ciancimino, Paolo Bellini, Rosario Pio Cattafi. E qui un po' nel ruolo di questi uomini cerniera la chiave anche per la comprensione di quella stagione. Io penso che quando il tema generale è quello dell'incontro tra mondi diversi per arrivare a delle intese, c'è sempre un ruolo di protagonismo da parte dei cosiddetti uomini cerniera, cioè di uomini che hanno bazzicato diversi mondi. Questa è una delle prospettive del processo che sta per iniziare. Ecco, dottore, alla luce di tutto questo enorme lavoro, lei che idea si è fatto? Perché non si è riusciti a bloccare la strage di Via D'Amelio, che pure era stata pianificata tempo prima? Questo rimane, secondo me, un grandissimo mistero che probabilmente ha determinato anche le grandissime difficoltà ad accertare la verità rispetto a quelle stagioni. Quella è la strage annunciata che non sarebbe mai dovuta accadere. Personalmente è un fatto che ancora mi sconvolge, perché naturalmente ogni strage è abominevole, ogni strage è una barbarie, ma quella era una strage annunciata e uno Stato democratico deve avere la capacità di poterla evitare. Quel fatto lì non doveva accadere, è un fatto che ancora mi sconvolge umanamente, perché quella è una strage annunciata. Quell'accadimento lì dimostra probabilmente le difficoltà della nostra democrazia in quegli anni. Le difficoltà e le debolezze anche. Le difficoltà, le debolezze, i lati oscuri della nostra democrazia. Ecco, dottor Morosini, questa è stata anche l'inchiesta di molte memorie labili. Che si tratti di buchi di memoria, questo eventualmente sono i provvedimenti a farne riferimento. Io su questo punto non voglio intervenire. Sono molto sparse, diciamo, sono molto diffuse. Sì, diciamo. Ci sono ormai degli atti che sono pubblici. Se la memoria, diciamo, fosse stata un po' più fervida da parte di più persone, forse i contributi all'accertamento della verità, va da sé, è quasi lapalissiano dirlo, sarebbero stati maggiori. Ecco, dottore, nel suo provvedimento lei fa un po' degli appunti anche al lavoro della procura, annotazioni tecniche sulla genericità delle accuse formulate da parte della procura. Io non disponevo di un indice ordinato per posizioni processuali e per periodi. Siccome dovevo dare il riferimento previsto dal codice, le fonti di prova su ogni specifico fatto, ho dovuto riordinare le cose, ma non c'è assolutamente nessun tipo di appunto nei confronti di nessuna delle parti, non erano ordinati, insomma, le fonti di prova, e quindi ho dovuto procedere spiegando perché lo facevo. Senza bacchettare nessuno. La serenità dentro l'udienza preliminare non è stata la stessa che c'è stata nel dibattito pubblico. Ci sono state le fortissime polemiche, le vicende riguardanti le famose intercettazioni che hanno coinvolto il Quirinale. C'è stata la vicenda anche triste della morte della consigliera della Quirinale D'Ambrosio. Ecco, è evidente che tutto questo è qualcosa di esterno e di estraneo, però è anche evidente che ciascuno è un uomo inserito in un mondo in cui lavora. L'udienza preliminare è cominciata in un clima esterno connotato da tutte quelle vicende a cui lei ha fatto riferimento. L'estate scorsa è stata un'estate difficile per il circuito istituzionale. E questo in qualche modo era molto evidente a tutti quanti voi. Era chiaro che queste cose erano sullo sfondo. C'è stata una grandissima capacità di tenere fuori queste cose dall'aula di giustizia. Il clima esterno ha raddoppiato la fatica e l'attenzione verso questi temi. Si percepiva l'attenzione anche esterna rispetto a quello che si stava facendo. C'è un ultimo elemento che inevitabilmente nel dibattito pubblico ha pesato in questi mesi. È stata anche la discesa in campo dell'ex procuratore che si era occupato di questa inchiesta, ossia Antonio Ingroia. Ha pesato in termini di attenzione quantomeno sulla gestione di quello che stavate facendo. Non sono disponibile a fare valutazioni in questo momento sulle scelte personali e professionali di un altro collega. C'è un tema sullo sfondo molto importante, che sono i rapporti tra i magistrati e la politica, quello che è accaduto nel dibattito pubblico, nelle polemiche, sotto certi profili forse era prevedibile nel momento in cui determinati magistrati hanno deciso di fare certe scelte, insomma. Se non ci fossero state sia le vicende riguardanti le intercettazioni di Napolitano, sia le vicende riguardanti l'impegno politico del procuratore Ingroia, sarebbe stata più concentrazione rispetto a quei temi a cui facevo riferimento prima. È un po' una forma di rammarico il suo. Sì, il mio è una forma di rammarico come cittadino, perché credo che un dibattito pubblico su quella stagione avrebbe aiutato tutti a comprendere meglio i fatti. Lei, che aveva già a lungo studiato e analizzato anche le carte giudiziarie storiche proprio sulle trattative italiane, che sono state il tema di un suo libro, quando ha saputo di doversi occupare come giudice dell'udienza preliminare della trattativa Stato-mafia, che cosa ha pensato? Guardi, io la cosa che ho pensato quando ho saputo che ero stato designato a questo processo e sapevo qual era la tipologia dell'incartamento, la quantità degli atti, la sensazione, l'unica vera sensazione che ho avuto è stata quella dell'inadeguatezza. Dopodiché un minuto dopo ho cercato di mettermi subito a vedere le carte per cercare di capirci qualcosa. Questo era fondamentalmente. Anche i nomi delle vittime di questa stagione di stragi vengono scanditi oggi insieme a tutti gli altri, un elenco lunghissimo, in questa 18ª giornata della memoria voluta da Libera quest'anno a Firenze, perché il diritto alla verità va riaffermato soprattutto per loro. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare la puntata il sito è radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra, l'hashtag a ciascuno il suo. Ciao a tutti, al prossimo weekend.